Salve a tutti, mi chiamo Gorgone Marco, volevo raccontarvi un piccolo aneddoto. Oggi al bar ho avuto una discussione con un mio amico, un tipo, che mi ha accusato assolutamente di essere un menefreghista e di aver rotto col fatto di non credere praticamente a niente. Ciò perché secondo lui, se tu non credi a niente, se non ti appigli a qualcosa, roba di politica, praticamente non vali un cazzo e non farai mai niente nella tua fottuta vita. Ci tenevo a dire invece che io, come la mia gente, quella che mi sta accanto, crediamo assolutamente in qualcosa. Ma più precisamente io credo in certi valori. Credo nei beat di Premiere e nelle rime di Guru. Credo che nessun altro artista riuscirà a fare un album come SXM dei Sangue Misto. Credo che i beat di Timbaland, della Rough Riders e di tutti i loro amici, soci e compagnetti facciano veramente cagare. Credo che se Nas usasse delle buone produzioni riuscirebbe a bissare il successo di Illmatic. Credo che ci voglia modestia. Credo che gli EPMD hanno chiuso il business perché si stavano sul cazzo a vicenda. Credo che Method Man dovrebbe essere il presidente degli Stati Uniti e magari anche della nostra Italia. Credo che criticare la roba che fa l'Aria Cronica e la Spaghetti Funk non porterà veramente a niente. Com'è vero che credo che le riviste del settore siano di parte. Credo anche che noi ci facciamo i cazzi nostri e che se ci si crede veramente bisogna non fermarsi, ma è pur vero che si avrebbe sempre il portafoglio vuoto. Credo che anche se non conoscevamo Joe Cassano come persona, come artista ci mancherà, o almeno a me. Credo che adesso può bastare. Raggruppate le vostre idee con questo. Oh yeah, it's the home of the microphone master Houdini. I'm dope, some don't believe me. Unless I stress, I'm bust a cap from steel. Aim for the dome, show 'em that I'm real hardcore. The underground rapper who's wrecked.